Com è il cielo, ossia la beatitudine eterna. Per la maggioranza delle persone il cielo, meno, inteso come la beatitudine eterna dopo la morte, meno, è qualcosa di indefinito e da scoprire solo dopo la morte. Secondo i testimoni di Geova, per esempio, quando una persona muore viene completamente annientata e rimane solo nella mente di Dio. Questa posizione ha dell'assurdo per un cristiano, ma conosco anche delle persone che, pur definendosi credenti in Cristo, pensano che il cielo non sia un luogo ma solo uno stato mentale. Altri credenti, nella massima confusione di idee, avendo accantonato ogni tentativo di risolverlo, tirano avanti portando fino alla tomba il loro enigmatico interrogativo. Personalmente non credo che questi atteggiamenti nei confronti della comprensione dell'esistenza dei beati in cielo siano saggi e adeguati alla fede cristiana, perché il Dio Trino che si è rivelato nelle scritture non ha solo palesato ciò che è successo su questa terra migliaia di anni fa, meno come la creazione, meno quello che sta succedendo, cioè l'apostasia, né soltanto quello che succederà in futuro come il ritorno di Gesù, ma tramite suo figlio il Dio Trino si è preoccupato di farci conoscere anche gli avvenimenti celesti. Si è quindi reso noto come sarà l'esistenza, come per altre cose il Dio Trino delle scritture non ha certamente rivelato tutto quello che appartiene alla vita celeste, ma ha dato indicazioni e espresso verità sufficienti perché noi potessimo averne un'idea precisa. Tra le varie verità che andremo a considerare, una è certamente primaria e sicura. In cielo, cioè la presenza del Dio Trino, non entrerà nulla che non abbia la stessa natura adatta a quel luogo. E poiché l'uomo, a causa del peccato insito nella sua natura, nasce inadatto alla destinazione celeste, ne consegue che egli debba realizzare un'esperienza spirituale chiamata nuova nascita, mediante la quale non è più lo stesso, ma si è reso idoneo di stare al cospetto di Dio. Gesù lo ha dichiarato in modo esplicito, esponendo questa realtà non ad una prostituta o al ladrone sulla croce, i peccati dei quali erano palesemente noti, ma rivolgendosi a Nicodemo, un capo religioso scrupoloso nell'osservanza dei comandamenti di Dio. Gesù rispose alla domanda di Nicodemo, asserendo che questa nuova nascita doveva avvenire mediante acqua, intendendo con questo termine la parola di Dio e non il rito battesimale per mezzo dello Spirito Santo. In verità ti dico che se uno non è nato d'acqua e di spirito, non può entrare nel regno di Dio. Giovanni 3.5. Gesù considerava il formalismo religioso un atteggiamento spregevole, al punto che più volte ha fatto presente che preghiere e elemosine non sono sufficienti per entrare in cielo. Infatti, al termine di un lungo discorso morale e non moralistico, Gesù ha concluso dicendo: «Non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli». Matteo 7.21. E per togliere ogni dubbio, Gesù disse, secondo il Vangelo di Giovanni: «È questa la volontà del Padre che mi ha mandato, che io non perda niente di tutto quello che Egli mi ha dato, ma che lo risusciti nell'issusciti, nell'ultimo giorno. Questa infatti è la volontà di colui che mi ha mandato, che chiunque viene alla conoscenza del Figlio e crede in Lui abbia vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno». Giovanni 6, 39-40. Parole, queste, inequivocabili. Anche se le parole di Gesù sono inequivocabili, la maggior parte delle persone continua a pensare di poter entrare nella beatitudine eterna del cielo, nonostante vivano secondo i loro principi morali, o si affidino alla loro religione per essere salvati. Se così non fosse, adeguerebbero la loro espressione religiosa all'ordine dell'unico vero Dio. Ho presente in modo particolare una donna alla quale parlo spesso del Vangelo di Cristo. Quando la nostra conversazione arriva al punto nel quale le si imporrebbe la scelta drastica di porre fede in Cristo quale suo unico Salvatore e unico Signore al quale ubbidire, ella mi ricorda che è stata battezzata dal sacerdote e quindi non può più cambiare religione. A nulla servono le mie esortazioni per farle capire che il messaggio del Vangelo di Cristo non invita i cattolici romani a cambiare religione, ma a realizzare ciò che professano con la bocca. Una delle invocazioni più frequenti del cattolicesimo romano è: «Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Abbi pietà di noi se chi formula una simile preghiera pensasse seriamente un attimo al significato di questa espressione, ne comprenderebbe l'assurdità. Prima di tutto è assurdo che per tutta la vita si possa formulare la stessa richiesta supplichevole, come se io avessi offeso mio padre e gli chiedessi fino al giorno della mia morte: papà perdono, papà perdono. Inoltre, chiedere perdono a Gesù Cristo è un atto di incredulità, perché Dio ha già perdonati e riconciliati tutti gli uomini tramite il sacrificio di Cristo. Chiedere ancora pietà quindi significa dubitare che Dio l'abbia già concessa. Dopo che mio padre mi ha perdonato, se io chiedo ancora pietà per tutta la mia vita, la sua prima reazione sarà di offesa per non essere stato creduto, e molto probabilmente la seconda reazione lo porterebbe a farmi ricoverare in qualche luogo per cure mentali. Non a caso, quando ogni cosa sarà finita, Gesù dirà: è fatto. Io sono l'Alfa e l'Omega, il principio e la fine. A chi ha sete io darò in dono della fonte dell'acqua della vita. Chi vince erediterà tutte le cose, e io sarò per lui Dio, ed egli sarà per me figlio. Ma per i codardi, gli increduli, gli immondi, gli omicidi, i fornicatori, i maghi, gli idolatri e tutti i bugiardi, la loro parte sarà nello stagno che arde con fuoco e zolfo, che è la morte seconda. Apocalisse 21, 6 a 8. Chi sono i codardi, gli increduli, i bugiardi, che non entreranno nel regno di Dio? Non saranno solo gli atei e i malvagi, ma tutti i religiosi che, scettici, continuano a chiedere perdono a Dio. Come sta scritto: e nulla di immondo e nessuno che commetta abominazione o falsità vi entrerà mai. Apocalisse 21 e 27. Se ci crediamo abbiamo tutto da guadagnare. Non solo i religiosi increduli non entreranno in cielo nella beatitudine eterna, ma anche tutti quelli che continuano a compiere ciò che Dio non approva, e, fra questi, prima di tutto coloro che si definiscono cristiani. Con il passare del tempo, il significato orrendo, inizialmente attribuito al termine cristiano, è andato perduto, come sono andati perduti gli eventi tragici dei Pellirossa quando scotennavano le persone. Dopo centinaia di anni, le tribù degli indiani d'America e le loro gesta sono motivo di spettacolo e di intrattenimento perché si ricordano in modo anomalo eventi reali. Come oggi si parla di Gesù e del cristianesimo, in modo anomalo, perché si è perso il vero significato di ciò che voleva dire essere cristiani. Essere cristiani, soprattutto per i primi tre secoli della nostra era, significava portare un nome infamante che identificava con Gesù, un uomo morto, in croce come un malfattore. Per questo chi aveva una fede finta evitava di portare questo nome. Mentre oggi portare il nome di cristiano è un vanto. Ma i veri cristiani per i primi tre secoli erano persone che non solo si comportavano bene, ma pensavano anche il bene nei confronti di tutti. Stupisce quindi che, dopo 2000 anni, ci siano persone che si definiscono cristiane solo per il fatto di appartenere ad una religione, e stupisce pure che certe persone, affermanti di credere in Cristo, si comportino in modo contrario al voler di Dio. Ma per obiettività occorre altresì riconoscere che, anche al tempo degli apostoli, vi erano credenti con un comportamento morale sbagliato. L'apostolo Paolo ha dovuto scrivere parole molto dure e precise perché fosse messo in evidenza chi poteva entrare in cielo. Non sapete voi che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio? Non vi ingannate. Né i fornicatori, né gli idolatri, né gli adulteri, né gli effeminati, né gli omosessuali, né i ladri, né gli avari, né gli ubriaconi, né gli oltraggiatori, né i rapinatori erediteranno il regno di Dio. 1 Corinzi 6, 9-10. Dopo 2000 anni, come è possibile ritenere degno di entrare nel regno dei cieli chi pratica l'omosessualità? Come è possibile che adulteri, effeminati, avari, oltraggiatori possono, nonostante il loro comportamento, meno essere sereni e certi di entrare nella beatitudine eterna? Qualcosa non va, o la parola di Dio non ha nessun valore e quello che leggiamo è solo retorica, oppure noi stiamo prendendo in giro Dio. Nessuno di noi ha il diritto di parlare della beatitudine eterna. o di chi sia in diritto di andarci, basandosi solo su presupposti a lui convenienti, solo Dio. Conosce il cielo e i suoi abitanti, e noi dobbiamo attenerci a quello che ci ha detto. Fra le tante cose che l'uomo non può fare, meno come per esempio volare senza l'ausilio di apparecchiature e l'andare in cielo con i beati, affidandosi alle proprie capacità o al proprio merito, è impossibile. Anche per questo che gli abitanti del cielo sono persone particolari. Lo sono perché, per essere idonei alla dimensione celeste, è necessario un atteggiamento contro natura, secondo quanto dichiarato da Gesù con giuramento: in verità vi dico che chiunque non riceve il regno di Dio come un piccolo fanciullo non entrerà in esso. Marco 10:15. Il discorso di Gesù non vuole intendere che le persone adulte devono avere l'istruzione di un piccolo fanciullo, ma che devono credere alle verità celesti come un piccolo fanciullo crede alle parole di un adulto. In effetti, credere che la salvezza non si ottenga per le opere, credere che Gesù è nato da una vergine e che è risorto il terzo giorno dai morti, credere che nell'aldilà ci sia una perdizione eterna e una salvezza eterna, è impossibile per la nostra razionalità, ma diventa possibile solo ponendo nelle parole di Gesù una fiducia incondizionata, pari a quella di un piccolo fanciullo nei confronti di un adulto. La salvezza di un'anima è sempre un miracolo che commuove. Parlavo di recente con alcune persone che dichiaravano la loro fede e il loro amore per Dio, facendo loro presente che una simile fede è una fede che non salva, dato che anche i demoni credono in Dio e tremano. I miei interlocutori erano estremamente confusi, perché pensavano che la fede e il loro sentimento positivo nei confronti di Dio fossero sufficienti per accedere alla beatitudine celeste, ma essi non erano più vicini a Dio di quanto un uomo su di un grattacielo pensi di essere più vicino al sole di chi ha i piedi per terra. Al termine dell'incontro li ho invitati a pregare Gesù per arrendersi a Lui come loro personale Salvatore e Signore, e vedevo la loro ciclopica fatica nel comprendere un simile linguaggio. La salvezza di un'anima è sempre un miracolo davanti al quale uno spettatore non può rimanere impassibile. E, come la nascita di un bambino, per quanto siamo ormai abituati a tale evento, è sempre un miracolo. Un'anima che entra nella beatitudine eterna deve essere proprio particolare, e questa particolarità sta innanzitutto in questa fede così semplice da credere ciò che umanamente è impossibile e che la ragione rifiuta di accettare. Come in cielo non entrerà nulla di impuro, così non entrerà chi ha una fiducia impura, cioè chi ha una fede con riserve. Il secondo aspetto che presenterà l'esistenza celeste è la gioia. Nel cuore di ogni essere umano non vi è anelito più grande dell'essere felice, tanto è vero, ogni cosa da noi intrapresa ha come ultimo scopo la felicità o la gioia. Forse qualcuno giudicherà eccezioni coloro che cercano sofferenze più o meno inaudite, ma il loro atteggiamento non fa che confermare il principio di cercare sempre la gioia, perché le sofferenze cercate hanno come scopo il raggiungimento della felicità. In effetti, si va dal dentista per soffrire, ma con lo scopo ultimo di stare meglio, come l'esploratore che rinuncia al benessere e alla comodità per la soddisfazione e la gioia di aver compiuto un'impresa unica. Cercare la felicità è dunque il primo e più profondo desiderio di un essere umano, e la futura vita beata è appunto il pagamento di questo disperato anelito. Ecco come l'Apostolo Giovanni descrive la vita ultraterrena. Poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra, perché il primo cielo e la prima terra erano passati e il mare non c'era più. E io, Giovanni, vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, che scendeva dal cielo da presso Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. E udii una gran voce dal cielo che diceva: ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini, ed egli abiterà con loro. E essi saranno suo popolo, e Dio stesso sarà con loro, e sarà il loro Dio. E Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi, e non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né fatica, perché le cose di prima sono passate. Allora colui che sedeva sul trono disse: «Ecco, io faccio tutte le cose nuove». Poi mi disse: «Scrivi, perché queste parole sono veraci e fedeli». Apocalisse 21, 1 a 5. Dunque, nella beatitudine eterna non vi saranno più lacrime, né morte, né cordoglio, né invocazione di aiuto, e neppure fatica, cose, queste, che caratterizzano la nostra esistenza umana. Forse è impossibile per noi esseri umani pensare come sarà una esistenza senza dolore né lacrime, come è impossibile per un cane conoscere le gioie di un matrimonio tra un uomo e una donna, eppure, se la parola di Dio afferma che non ci sarà cordoglio in cielo, questo non ci sarà. Nel luogo della beatitudine eterna non ci saranno più lacrime, né alcun tipo di sofferenza anche, perché non ci saranno più separazioni di nessun genere, soprattutto quelle affettive. La nostra vita terrena è cosparsa dalla gioia di vivere con persone che amiamo, come i nostri genitori, il nostro coniuge, i nostri figli e i nostri parenti. Cosa sarebbe la nostra esistenza senza queste meravigliose relazioni? Come sarebbe la nostra vita senza l'amore che si riceve e quello che si dà? Questi affetti terreni ci legano a questa esistenza rendendola piacevole e gioiosa, ma poi arriva il giorno della separazione, annunciato o improvviso, nel quale realizziamo il più delle volte quale dono era l'essere amati e ricambiare l'amore di certe persone. Eppure, questa nostra esistenza terrena, con i vari aspetti dell'amore, non è altro che un breve e imperfetto riflesso di ciò che è in cielo, perché la dimensione celeste è caratterizzata da un amore che non proverà più dolore, cosa, questa, a noi, totalmente sconosciuta. Quando si parla di cielo e di separazioni, si pensa subito se lassù avremo la gioia di riconoscere i nostri cari, interrogativo che ha una risposta positiva. E, possibile perché non ci è nulla di scritto in merito alla certezza del riconoscimento, ma occorre anche affermare che il riconoscimento non sarà certamente in rispetto alle sembianze umane come avviene oggi. Noi parliamo e ragioniamo con una mente sottoposta al tempo, perciò da bambini si diventa adulti, e poi vecchi, e se questa è la nostra esperienza, quale età si avrà in cielo? Con quale età ci riconosceremo? Sono domande puramente umane, perché per forza di cose in cielo non vi è un'età, meno perché l'età stessa non può esistere dove vi è l'eternità, meno e se non vi è un'età, in quale veste ci riconosceremo? Se ci riconosciamo come giovani scapoli, perderemo l'identità di persone mature, sposate. Se ci riconosceremo come quando eravamo sposati, perderemo l'identità di quando eravamo vecchi. Se ci riconosceremo con l'identità di quando eravamo vecchi, perderemo l'identità di giovani o di sposati. E come faremo a riconoscere i bambini morti ancora in fasce? La risposta non è facile e forse impossibile, ma una cosa sembra certa. Ci riconosceremo dalle caratteristiche spirituali avute nella vita terrena. Sta scritto che in cielo ogni figlio di Dio avrà un nome nuovo. Questa espressione, secondo la cultura del popolo al quale Dio si è rivelato, significa che ogni credente avrà un nome, indicante le sue peculiari caratteristiche spirituali. Per comprendere come sia possibile riconoscere le persone senza avere la possibilità di vederle nei loro tratti umani precisi, è sufficiente pensare ai ritratti umoristici. Si tratta solamente di schizzi, ma completamente sufficienti per farci comprendere il personaggio che si vuole indicare. Nulla di esatto, ma comunque d'aiuto per un'identificazione esatta. Così, in cielo ci è una completa gioia e scomparirà qualsiasi pianto, dove non ci sarà quindi il pianto della la separazione dai nostri cari, se ovviamente anche loro avranno amato la fonte d'amore, cioè Dio. Il terzo elemento che caratterizza il regno dei cieli è il riposo. La parola di Dio si riferisce spesso al riposo, ma, come per altre verità, il riposo del quale parla la Bibbia è compreso secondo la nostra cultura, e cioè una cessazione temporanea di un lavoro o di un'attività qualsiasi. È vero che il riposo del quale parla la Bibbia contiene anche questo elemento, ma sarebbe un grave errore ritenere il riposo biblico solo in quel senso. Quando Gesù, rivolgendosi a tutti, disse: «Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo, Matteo 11.28, non voleva certamente dire che chi avrebbe creduto in lui avrebbe cessato di agire, anche perché i suoi discepoli dichiarò: in questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto, Giovanni 15.8, perciò il riposo, menzionato da Gesù, poteva solo indicare la fine delle tensioni derivate dalla ricerca di piacere a Dio e agli uomini. Infatti non sono gli eventi della vita a logorarci, ma il nostro atteggiamento nei loro confronti. Se la mia esistenza è caratterizzata dallo smodato desiderio di guadagnarmi un posto in paradiso, se ogni azione è finalizzata all'essere gradito a Dio, è evidente che termino le mie giornate sfinito. Ma se io mi sono riconciliato con Dio tramite Cristo, se sono cosciente che non devo fare nulla per essere perdonato o per piacere a Dio, perché credo che Dio mi abbia già perdonato e che gli sono già gradito, vivrò ogni giorno senza sforzi, ecco il riposo del quale ho bisogno. Così, come cristiano, compio la volontà di Dio con tutte le mie forze, ma il riposo dell'anima e dello spirito mi accompagna in ogni momento della mia vita. Solo dopo aver vissuto una vita di riposo il credente realizzerà anche il riposo nel cielo. Così testimonia Giovanni nel libro dell'Apocalisse. Poi udii dal cielo una voce che mi diceva: scrivi, beati i morti che d'ora in avanti muoiono nel Signore. Sì, dice lo Spirito, affinché si riposino dalle loro fatiche perché le loro opere li seguono. Apocalisse 14.1.3. A tutti piace il riposo, ma sembra che pochi credenti abbiano capito che il riposo è tale solo quando si è affaticati. Perciò se chi ha posto fede in Cristo non vive una vita di servizio, se non lavora duramente nel campo di Dio, se non tratta duramente il suo corpo e rifiuta costantemente tutto ciò che contamina lo spirito, come potrà riposare in cielo? Può forse riposarsi dalle sue fatiche, se fatiche non ne ha fatte? Piacere dunque un luogo di riposo, ma solo per coloro che si sono affaticati. Un quarto elemento caratterizzante l'esistenza celeste è che i salvati hanno una vita di servizio. Una volta compreso che il riposo non è necessariamente una cessazione temporanea di un lavoro o di un'attività qualsiasi, ma un'attività svolta senza tensioni o per ottenere qualcosa, il servizio o il lavoro non si presenterà come un nemico da evitare, ma come un momento da ricercare. Occorre ribadirlo. L'inattività è l'esperienza più brutta che un essere pensante e razionale possa vivere. Infatti, è più facile sopportare troppo lavoro che non averne affatto. Esso è molto confacente alla natura dell'uomo, il quale è fatto a immagine di Dio, poiché se Dio opera tuttora, Giovanni 5.17, va da sé che per la persona non vi è niente di più naturale dello svolgere una normale attività. E in quest'ottica che viene visto il servizio in cielo. Perciò il cielo non è un luogo come pensano alcuni, meno dove per tutta l'eternità non si farà altro che pregare e cantare inni tra l'altro noiosi, ma piuttosto un luogo dove ognuno troverà un'immensa soddisfazione nel servire Dio e suo Figlio Cristo Gesù. Così ha visto il cielo l'Apostolo Giovanni, come Dio glielo ha rivelato. Poi gli mostrò il fiume puro dell'acqua della vita, limpido come cristallo, che scaturiva dal trono di Dio e dell'Agnello. E in mezzo alla piazza della città e da una parte e dall'altra del fiume si trovava l'albero della vita, che fa 12 frutti e che porta il suo frutto ogni mese, e le foglie dell'albero sono per la guarigione delle nazioni. E qui non ci sarà alcuna maledizione, in essa sarà il trono di Dio e dell'Agnello, e i suoi servi lo serviranno. Essi vedranno la sua faccia e porteranno il suo nome sulla loro fronte. Apocalisse 22, 1-4. È normale che chi legge la parola di Dio ritenendola senza valore sia annoiato davanti a certe descrizioni. Chi invece crede che le descrizioni di Giovanni concernenti il cielo sono letteralmente vere, ha un dolce sussulto nel cuore e attende con gioia il momento di vedere la città di Dio, di vivere in un luogo dove non vi è corruzione e aspetta il momento di Ma, forse, la più bella promessa in merito al servizio è quella che Gesù ha fatto per chi lo serve già ora fedelmente. Beati quei servi che il padrone troverà vigilanti quando egli verrà. In verità vi dico che egli si cingerà e li farà mettere a tavola, ed egli stesso si metterà a servirli. Luca 12.37. i servi di Dio serviti dal gran servitore Gesù Cristo. Vi è forse qualcosa di più meraviglioso? No. Il cielo non è un luogo noioso per noiosi e religiosi, ma la risposta ai nostri più profondi desideri umani. Chi è quel pazzo che non vorrebbe andarci? Un quinto elemento caratteristico dell'esistenza celeste è che i salvati trovano risposta ai loro interrogativi, cioè hanno una conoscenza che li soddisfa. Lo ha detto l'Apostolo Paolo nella sua prima lettera scritta ai credenti di Corinto, parlando del valore dell'amore. L'amore non viene mai meno, ma le profezie saranno abolite, le lingue cesseranno, e la conoscenza sarà abolita perché conosciamo in parte e profetizziamo in parte. Ma quando sarà venuta la perfezione, allora quello che è solo parziale sarà abolito. Quando ero bambino parlavo come un bambino, avevo il senno di un bambino, ragionavo come un bambino. Quando sono diventato uomo, ho smesso le cose da bambino. Ora infatti vediamo come per mezzo di uno specchio, in modo oscuro, ma allora vedremo a faccia, ora conosco in parte, ma allora conoscerò proprio come sono stato conosciuto. 1 Corinzi 13.8-12. Spesso ciò che turba di più nella vita sono gli eventi per i quali non abbiamo una spiegazione. È difficile comprendere perché Dio abbia permesso la strage delle Torri Gemelle l'11 settembre, come è difficile spiegare che ancora oggi, secondo un rapporto sulla libertà religiosa nel mondo meno, vi siano quasi 200 paesi che detengono il primato nella persecuzione sistematica dei cristiani, da parte di fanatici religiosi e atei, i quali con una fantasia infinita picchiano, seviziano e uccidono nei modi più svariati chi ha posto fede in Cristo. Molti cristiani ancora oggi sono sottoposti ad estenuanti lavaggi del cervello, mentre altri vengono assassinati in modi svariatamente crudeli, fra i quali anche per mezzo di una colata d'acciaio fuso sul corpo. E che dire di coppie, missionari e le vite dei quali sono falciate tragicamente in un incidente stradale? Chi ha posto fede in Cristo? Quale Salvatore Signore non ha una risposta a tutto, ma sa che verrà il giorno quando conoscerà appieno quanto sia stato amato anche, e soprattutto nelle situazioni più tragiche? In cielo il credente non avrà più domande, ma vivrà appieno, appagato per le risposte. E questo non è poco. Un sesto elemento che caratterizza l'esistenza celeste consiste nell'adorazione dei salvati per Dio. Giovanni, secondo la rivelazione ricevuta da Cristo Gesù, descrive l'attività esistente nel cielo nel seguente modo. Di ogni volta che gli esseri viventi rendono gloria, onore e grazie a colui che siede sul trono, colui che vive nei secoli dei secoli, 24 anziani si prostrano davanti a colui che siede sul trono e adorano colui che vive nei secoli dei secoli e gettano le loro corone davanti al trono, dicendo: «Degno sei, o Signore, di ricevere la gloria, l'onore e la potenza, perché tu hai creato tutte le cose e per tua volontà esistono e sono state create». Apocalisse 4.9.11. Quando si parla di adorazione, ci si riferisce ad una delle attività più belle che possano esistere, ma altresì una delle più angoscianti. L'adorazione è l'atteggiamento più bello che una creatura possa avere nei confronti del Creatore e Salvatore, perché in quel momento egli riconosce chi è colui che adora e come conseguenza si prostra ai suoi piedi, ma è altresì l'atteggiamento più angosciante perché adorare qualcuno quando non vi è nessun desiderio di farlo è veramente estenuante. Questo è il motivo per il quale gli atei e i formalisti religiosi non desiderano andare in cielo con i beati, perché, vedendosi costretti ad adorare qualcuno per il quale non provano nessun sentimento di adorazione, trovano il cielo come un inferno, mentre l'inferno è più consone al loro sentimento spirituale. Se le cose fossero così, se si chiedesse agli atei o ai religiosi ipocriti di adorare Dio per quello che è, per loro sarebbe veramente un inferno o la più sgradevole attitudine, ma Dio non si aspetta nulla là, dove non ha seminato o non ha dato in precedenza. Chiedere adorazione a Dio ad una persona che per tutta la vita ha rifiutato ogni sentimento religioso, o domandare ad un falso religioso di riconoscere Cristo quale Salvatore, sarebbe come chiedere ad un cane di miagolare. Ma supponendo che il cane abbia ricevuto una natura felina e di conseguenza abbia la voce di un gatto, allora chiedere ad un cane di miagolare non sarebbe più un'assurdità. Così le persone che adorano Dio e Cristo non sono in possesso di questa attitudine per una loro capacità intrinseca, ma essendo state trasformate mediante la nuova nascita e avendo ricevuto lo Spirito Santo, mediante questa nuova natura e lo Spirito, non solo adorano Dio, ma non possono farne meno. L'adorazione per coloro che sono in cielo è la più spontanea attività che possa esserci. Se non fosse così, l'adorazione non sarebbe più adorazione, perché l'adorazione per essere tale può scaturire solo da un cuore libero e spontaneo. In cielo non vi è nessuna falsità o imitazione. Un settimo elemento caratterizzante l'esistenza celeste è che i salvati ricevono la ricompensa. Il cielo è bello perché il suo carattere, oltre a contenere elementi celesti, è anche umano. Il Dio Trino è autosufficiente e non ha bisogno di nessuno. Potrebbe benissimo chiedere e pretendere anche senza dover fare promesse o assumersi responsabilità. Invece, Dio, tramite Gesù Cristo, si è impegnato a ricompensare chi pone fede in Lui e lo serve. Le parole di Cristo Gesù descritte per noi esseri umani nel libro dell'Apocalisse sono meravigliose. Ecco, io vengo presto e il mio premio è con me, per rendere ad ognuno secondo le opere che egli ha fatto. Apocalisse 22.12. In verità, questa affermazione di Gesù ha due risvolti. Dicendo che renderà a ciascuno secondo le sue opere, Gesù non intende solo a coloro che lo hanno riconosciuto e accettato come il padrone della loro vita, ma si riferisce anche agli increduli. Quando si dice che nell'aldilà non porteremo nulla di quello che possediamo in questa terra, si esprime una grande verità, però non è totalmente vero che non porteremo proprio nulla nell'aldilà, perché quello che si sarà fatto di bene o di male troverà un riscontro dopo la morte. Coloro che hanno vissuto senza sottomettersi alla volontà di Dio dopo la morte andranno in un luogo dove Dio non quazzi è un luogo di pianto e di dolori, mentre chi avrà perduto la propria vita per amore di Cristo e del regno di Dio entreranno nella beatitudine eterna. Perciò il premio al quale si riferisce Gesù è la giusta e proporzionata retribuzione che ricevono gli uomini. Da notare che Gesù non rende a ognuno secondo ciò che ha detto, ma secondo ciò che ha fatto, perché Gesù non si accontenta di parole. Con le parole noi possiamo anche ingannare le persone, ma non con i fatti. Ecco perché Gesù ha dichiarato: non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Sono le opere della fede che valgono, perché l'opera esprime ciò che uno pensa o dichiara, mentre le sole parole non sono sufficienti a manifestare ciò che si ha nel cuore. Accennando ai falsi profeti menoi, quali hanno delle belle parole, Gesù ha affermato: voi li riconoscerete dai loro frutti. Il cielo dunque è il luogo dove i nodi tornano al pettine, è la vera resa dei conti, è il momento di ricevere la giusta, equa ricompensa, la quale non è altro che un premio per i salvati e un salario per i perduti. Mentre il salario è la giusta e indiscutibile retribuzione per quello che si è fatto, il premio è un dono che non si è obbligati di ricevere. Così, oltre la gioia di essere nella gioia, in cielo vi è la gioia di ricevere doni inaspettati e immeritati. Un ottavo elemento che caratterizza l'esistenza celeste è un mondo simile al nostro. Forse, per alcuni credenti, questo è l'aspetto più difficile da accettare, ma personalmente mi è molto difficile credere che le centinaia di affermazioni particolareggiate dell'esistenza futura siano descrizioni puramente simboliche e senza nessun elemento reale. L'affermazione di Gesù: nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se no ve lo avrei detto, io vado a prepararvi un posto, non era puramente simbolica e priva di significato, anche perché i discepoli sapevano distinguere una parabola volta ad esprimere concetti morali da parole con un contenuto reale. Tanto è vero che l'autore della lettera agli Ebrei, parlando del patriarca Abramo, scrisse: per fede Abramo dimorò nella terra promessa, come in paese straniero, abitando in tende con Isacco e Giacobbe, eredi con lui della stessa promessa, perché aspettava la città che ha i fondamenti, il cui architetto e costruttore è Dio. Ebrei 11.9-10.